Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. Con le mani a cielo.